Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo in collegamento telefonico con Maurizio che lavora all'Agenzia delle Entrate. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Allora, dunque, oggi stiamo parlando, come tu ben sai, insomma, di Equitalia Gerit. C'è in programma questa iniziativa prevista per domani. Volevamo insomma chiederti, Maurizio, visto che tu lavori proprio all'Agenzia delle Entrate e quindi sì, diciamo che l'Agenzia delle Entrate... Diciamo che l'Equitalia è il braccio operativo delle agenzie fiscali e a volte si scatena ci sono delle ripercussioni sull'Equitalia che forse sono eccessive. Sicuramente Equitalia ha messo in moto una serie di meccanismi coercitivi che prima non esistevano, le ganasce, il sequestro dei veicoli, e sicuramente lo Stato, le agenzie fiscali, le amministrazioni pubbliche pagano con aggi molto generosi, molto, molto forti l'Equitalia, questo è sicuro. Ma il problema secondo me nasce da una tassazione sperequativa. Cioè in Italia c'è una tassazione verso il lavoro dipendente che è di una maniera e la tassazione verso le rendite finanziarie che è tutt'altro. Noi sappiamo che il lavoro dipendente, il lavoro normale viene tassato con delle aliquote che vanno dal 23 al 27 al 38 al 41, molto forti, mentre invece le rendite finanziarie, quindi i titoli, le azioni, le grandi trasmissioni di plusvalenze, di rendite finanziarie all'interno dell'Italia ma anche all'estero, sono tassate con una ritenuta alla fonte del 12,50. Quindi già di per sé questa è una grande sperequazione. Di fatto un lavoratore pubblico, un lavoratore privato ha una tassazione che è il doppio minimo rispetto a quella di un grande imprenditore, di un grande industriale. Quindi già parte in maniera sperequata, distorta la tassazione. A questo c'è il mondo della politica che chiaramente è tutto diretto nella salvaguardia degli interessi delle grandi imprese, delle grandi finanze, dei mercati finanziari europei e quindi di fatto agevola tutto ciò che riguarda quei mercati. E questa è la situazione. Di fatto la lotta all'evasione, che dovrebbe essere un capisaldo dell'evasione fiscale, un capisaldo di qualsiasi amministrazione statale, pubblica, diventa una lotta di retroguardia, non viene fatto perché va a colpire interessi troppo forti, molto forti, e quindi viene messa in un cantuccio. Quindi in genere si scarica tutto sull'Equitalia, no? Però se non facciamo un ragionamento, una riflessione a tutto tondo, poi non riusciamo a capire. Certamente l'Equitalia ha, ripeto, mezzi coercitivi che prima non venivano usati, che però dobbiamo anche dire che per esempio la riscossione che veniva fatta in Sicilia ai tempi delle grandi cosche mafiose era tutta in mano alla mafia e quindi aveva dei tempi di riscossione dei tributi molto dilatati se non inesistenti. Oggi invece è molto più obbligativo, molto attuale, tra l'altro c'è un decreto legge che dal 1 luglio tutti gli atti impositivi avranno tra i 60 e i 90 giorni, tutti i ruoli e i tributi verranno riscossi tra i 60 e i 90 giorni, quindi potete immaginare il ricasco che avrà su tutta la popolazione, i cittadini. Però a volte il pensionato, il lavoratore dipendente, il lavoratore pubblico, il lavoratore del privato che si lamenta per questa forma di attacco di massa, però ripeto, se non guardiamo il profondo, i retroscena che derivano tutta da scelte governative da decenni, tutte in una direzione a salvaguardia delle rendite padronali, non capiamo il problema. Tra l'altro la lotta all'evasione significa rimpinguare le casse dello Stato, significa andare incontro ai servizi sociali, ai servizi pubblici che in questa fase mi sembrano parecchio in discesa come garanzia. Beh sì, hai fatto un quadro insomma abbastanza chiaro del problema e difatti dicevamo anche noi insomma che bisognerebbe anche andare a capire il fatto che alla fine, parliamoci chiaro, le direttive, insomma, per impostare e creare, insomma, questo tipo di società alla fine sono state fornite, insomma, immaginiamo anche a livello di ultima decisione dai ministeri stessi. Oggi di fatto, insomma, lo stesso Tremonti può presentarsi come benefattore, insomma, in grado di armonizzare un po' le pretese fiscali di Equitalia. Rimanendo però, diciamo, l'Equitalia è anche una società pubblica, certo. Noi pensiamo alla società privata, invece gli azionisti di maggioranza sono l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, quindi è una società di fatto pubblica, quindi tutte le scelte che fa sono scelte dirette dal governo, da Tremonti, da Brunetta, da Berlusconi, quindi non sono scelte fatte da una società che ha, che ne so, il general manager, il consiglio di amministrazione che decidono, sono tutte scelte politiche che vengono dal governo, e quindi è inutile, certo, il cittadino, il pensionato che si trova una cartella settoriale, che a volte pazza, sta in difficoltà e reagisce giustamente. Però è un meccanismo di procedurale che non dipende dall'Equitalia di per sé, ma è un meccanismo di scelte governative, questo dobbiamo, che è difficile far passare, far capire questo messaggio. Invece il governo scarica sull'Equitalia, no? Ora c'è Tremonti, che è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, che scaricano tutto o sul dipendente corrotto vessatore, tra virgolette, ma sull'Equitalia per i meccanismi che loro stessi hanno messo in moto, quindi è un paradosso. C'è da dire però pure, Maurizio, che insomma le prerogative di Equitalia si sono man mano anche allargate, perché dalle multe stradali si è passati poi anche ai tributi non versati dell'INPS, dell'INAIL. Ci diceva addirittura un compagno che gli è capitato, di fronte a un errore di tipo contabile sulla sua busta paga rispetto alle trattenute IRPEF, che chiaramente sono trattenute sul lavoro dipendente e quindi a monte effettuate dal datore di lavoro, rispetto a questo errore di calcolo si è visto lui, insomma, recapitare la cartella esattoriale per chiaramente errori che non lo riguardavano. E com'è possibile che si occupi anche di IRPEF Equitalia? Equitalia ormai è l'agente della riscossione massimo, che chiaramente va, come hai detto tu, dalle multe stradali a tutti i tributi possibili e immaginabili, sia locali, sia regionali, sia delle amministrazioni. Quindi di fatto è stato dato le chiavi in mano a un unico ente che fa il bello e il cattivo tempo, e diciamo una delle cose particolari, soprattutto chi ha ricevuto multe, tasse e cartelle esattoriali, si rende conto che anche le persone decedute vengono perseguitate dopo attraverso gli eredi e tutti i meccanismi coercitivi a cascata. Però diciamo, ripeto, possiamo, come dire, avere un giudizio negativo sull'Equitalia e figuriamoci. Però, ripeto, dipende tutto dalle scelte politiche fatte dal suo governo, quindi certo, tutto in quella direzione che dobbiamo ragionare e riflettere. Certo, certo. Va anche detto che, tra l'altro, insomma, la sproporzione che c'è tra le misure adottate da Equitalia per pervenire alla riscossione dei crediti rispetto poi in realtà agli importi dovuti, insomma, sono incredibili. Nonostante il fatto che poi ci sia stata una sentenza della Corte di Cassazione che prevede che il tetto massimo per procedere a fermi amministrativi o pignoramenti o ipoteche sia di 8.000 euro. In realtà, da quando è uscita questa sentenza nel febbraio del 2010, Equitalia non si è adeguata alla stessa, ma ha continuato a insomma agire come faceva in precedenza. Come se nulla fosse. Come se nulla fosse. E c'è poi da dire anche che nella maggior parte dei casi le persone si ritrovano di punto in bianco con i conti bancari anche congelati, con i conto corrente congelati, insomma. E il problema è che tutto ciò avviene sempre senza preavviso. Ma improvvisamente, da arriva a casa l'ufficiale giudiziario, la cartella, l'agenda della riscossione che batte cassa, questo è indubbio. Però ripeto, cioè, se noi pensiamo a tutta la normativa che riguarda proprio i termini di notifica degli atti, che vabbè, per gli addetti al lavoro è più chiaro, per chi sente forse un po' più difficile. Le grandi società hanno dei meccanismi, sapete che quando vengono emessi degli atti di accertamento, di verifica, di riscossione tributi alle società, diventa molto complicato andarli a riscuotere, perché le società usano dei trucchetti, dei mezzi, come trasferire le sedi legali, trasferire le sedi operative, mettere delle teste di legno come amministratori o rappresentanti legali, che diventa molto difficile, ed è molto difficile andarli a beccare. Quindi una delle indicazioni che dovrebbe essere data a Equitalia sarebbe proprio quella di differenziare la platea dei contribuenti a cui rivolgersi, quindi il pensionato, il lavoratore dipendente, la famiglia. Bisognerebbe avere un atteggiamento diverso, molto più suadente, tra virgolette. Invece per le grandi imprese, per le società che marciano in questa direzione e che fanno il gioco a nascondino, oggi c'ho la sede legale a Roma, domani a Palermo, domani a Milano, l'anno prossimo a Torino, in questo giro è difficile beccarli, è difficile riuscire a riscuotere tasse che spesso riguardano l'evasione fiscale. Quindi la norma dovrebbe essere più attenta, più inquadrare le varie fattispecie, e così anche l'Equitalia dovrebbe seguire sta logica, ma la logica mi sembra che non è né dell'Equitalia né di questo governo, penso. Mi sembra tra l'altro che si stia profilando una logica davvero diversa, perché tutto sommato mi sembra che alla fine vada configurandosi il fatto che le pressioni esercitate proprio nelle ultime settimane, soprattutto da parte di alcune categorie, in piccoli imprenditori e commercianti su tutti, possono spostare qualcosa. In realtà magari un po' la pressione nei confronti di queste categorie verrà meno, ci saranno piani di rateizzazione più lunghi o comunque insomma altri dispositivi di questo tipo. L'impressione è che a pagare alla fine siano sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi, è sempre il lavoro dipendente classico, perché anche gli ordini professionali o le categorie tipo commercianti eccetera sono molto agguerrite, hanno un peso politico molto grosso sul governo e sulle agenzie fiscali e sull'Equitalia, perché loro vanno lì come ordine, organizzazione, come commercio eccetera, battono i pugni sul tavolo, hanno un peso politico diverso. Il singolo lavoratore dipendente che non è rappresentato oggi in Italia, che non ha punti di riferimento né politici né sindacali né associativi, e chiaramente si trova indifeso, solo e completamente massacrato da continui tasse e balzelli, ripeto, creati da sto governo, perché vediamo le addizionali regionali e comunali che aumentano di anno dopo anno. A Roma ormai siamo arrivati allo 0,90 l'addizionale comunale e all'1,7, 1,6 l'addizionale regionale, quindi c'è un'escalation di tasse, tributi, che è una cosa scandalosa, e quindi ripeto, il singolo cittadino è indifeso, si trova questo tsunami tributario, mentre certe categorie, tra l'altro tutta la storia degli studi di settore, non fanno altro che andare ad avere un dialogo, un'interlocuzione proprio con le categorie professionali o con le categorie di commercianti eccetera, mentre il singolo lavoratore, il singolo cittadino, che categoria c'ha? Non c'ha niente, quindi si difende da solo. Questo è il panorama. E va bene, e anche gli impianti sanzionatori, i criteri, immaginiamo siano stati decisi anche dalle stanze del governo, insomma, no? Assolutamente sì, la Gerit, come ben dicevi, è naturalmente un'agenzia privata, un SPA, però a capitale pubblico, per la metà Agenzia delle Entrate e per l'altra metà circa dell'INPS. E il discorso è abbastanza chiaro, nel senso che l'abbiamo visto anche nell'ultimo mese, mi sembra ci sia stata anche un'accelerazione nella presa di parola pubblica, dal 6 maggio, in cui sono state attaccate in maniera comunicativa ma anche in maniera anche molto concreta, immaginiamo a Torino, a Milano, Trieste, Genova, Livorno, ci sono stati dei volantinaggi davanti alle sedi di Equitalia. Il tema dell'oppressione fiscale, fondamentalmente in un contesto di crisi economica, è diventato un tema centrale. Per noi, come laboratorio verso lo sciopero precario, laboratorio romano, è una questione centrale, perché non riusciamo a comprendere perché in un periodo di crisi in cui i redditi sono intermittenti, Noi abbiamo questo braccio operativo che è Equitalia Gerit, penso che tutte le persone che ci stanno ascoltando hanno avuto a che fare nel male o nel bene, che ha la possibilità estorsiva, attraverso degli abusi anche di potere e quindi di strozzinaggio legalizzato, di bloccare conti correnti, pignorare macchine e beni e tutto sommato rendere evidente che questa crisi la stanno pagando veramente i soggetti che stanno subendo processi di precarizzazione. Faccio un'altra considerazione: il 50% degli introiti della Gerit, che ricordiamo sono intorno ai 10 miliardi nel 2010, sono introiti derivati da utenze e bollette non pagate. L'altro 35% sono pignoramenti per mutui, cioè sono mutui di case. Quindi se uno fa un po' di considerazione, di questi 9 miliardi, la maggior parte li stanno pagando i soggetti precarizzati da questa crisi fondamentalmente. Ci chiediamo anche questa cosa: dove sono il resto dei 120 miliardi di evasione fiscale che noi abbiamo? Quindi in questo contesto, mentre si danno incentivi alle banche e alle grandi imprese per la crisi, i soggetti precari, i disoccupati, chi vive tra un lavoro e un altro, non riesce ad utilizzare o usufruire un diritto all'insolvenza. Noi pensiamo che questo sia un tema centrale per tutti: il diritto alla bancarotta per i precari, il diritto all'insolvenza. E il 26 è stata costruita una mobilitazione che sarà molto determinata, nel senso, per porre questa questione. Naturalmente è l'inizio del lancio di una campagna, non finisce tutto il 26. Noi abbiamo colto un appello internazionale fatto dalle reti francesi, che in quella giornata, nel 26 e il 27 maggio, ci sarà il G8 a Nizza. In quella giornata le reti francesi hanno lanciato delle azioni dislocate in tutta Europa contro l'austerity. Pensiamo che sul tema dell'austerity uno degli obiettivi fondamentali da cominciare a praticare è proprio Gerit Equitalia, che sta danneggiando la vita e rovinando la vita di migliaia di persone. Basti pensare a quello che è accaduto in Sardegna, insomma a Cagliari c'è stato un corteo di 15.000 persone una decina di giorni fa, di soggetti, piccoli imprenditori, soggetti precarizzati, disoccupati, a cui Gerit ha rovinato effettivamente la vita. Certo, commentavamo tra l'altro poc'anzi il fatto che poi alla fine queste categorie spesso riescono anche a trovare il canale giusto, essendo di fatto delle grandi corporazioni, quelle dei commercianti ad esempio, attraverso i quali riescono poi a ottenere dei risultati facendo queste pressioni. I soggetti più indifesi sono quelli a cui facevi riferimento tu prima, insomma precari, disoccupati, nullatenenti o quelli insomma che hanno qualcosa e li viene strappato via proprio dalle cartelle della Gerit. Volevo però, Cristian, invitarti a spiegarci meglio questa questione relativa ai mutui, perché ci risulta un po' nuova, cioè il fatto che Equitalia si occupi anche della riscossione per conto delle banche. E poi volevo anche invitarti a un altro aspetto, anzi no, vabbè, facciamo che ci rispondi prima a questo aspetto qui, va? No, queste sono inchieste che sono state pubblicate dal Sole 24 Ore. Capite bene che in questo mese, essendo accaduto di tutto, c'è stata una risonanza mediatica straordinaria rispetto a questo affare. Nel senso, per capirci, c'è una risonanza così mediatica che anche Futuro e Libertà ha organizzato dei presidi in tutta Italia a metà di maggio, insomma, contro l'oppressione fiscale. È chiaro che su questo tema si gioca molto della tenuta anche di quello che è questo governo. Non ultimo, le prese di parole di Tremonti sulla ganascia fiscale, sull'oppressione fiscale, in un clima naturalmente di ballottaggio, clima pre-ballottaggio, sono la presa di posizione di effettivamente le criticità che sta esprimendo questo braccio operativo delle agenzie delle entrate, che viene descritto come un braccio operativo che in questi anni è riuscito a raccogliere grandi risultati. Noi pensiamo che ci sia un reale problema di evasione fiscale, ma da parte dei grandi gruppi aziendali, dei grandi capitali in questo paese. E i dati che dicevo prima sono dati raccolti e pubblici dal Sole 24 Ore. Questo fa sì che la Gerit possa anche pignorare in un certo qual modo, almeno da quello che si legge negli articoli e nelle inchieste che stanno uscendo, anche avere la funzione in un certo modo di pignorare beni come la casa, i garage. Sì, leggevo assolutamente che si è visto pignorare il garage per una bolletta non pagata. Sì, assolutamente sì, nel senso che scattano le ipoteche sui beni immobiliari, ma credo sempre per diciamo, una volta che vanno a ruolo cartelle esattoriali relative a altri tipi di tributi, in particolare diciamo INPS, INAIL, quando c'era l'ICI che era diciamo un cespite delle amministrazioni locali, e poi appunto sanzioni di vario tipo e soprattutto queste famigerate multe stradali. Assolutamente. Un'altra delle contraddizioni forti, se posso dirla, che stavamo analizzando proprio in questo periodo, è che l'INPS, come dicevi anche tu prima, ha circa il 50% delle azioni della Gerita Equitalia. Ora, noi che siamo andati anche davanti all'INPS, dentro, contestando, insomma, dopo le dichiarazioni del Presidente, che un po' di mesi fa dichiarava se dovessimo calcolare le pensioni ai precari accadrebbe un sommovimento sociale. Ora, noi ci troviamo ad essere, anche come dato generazionale in questo momento, penso che la Gerit poi sia un problema diffuso e trasversale per tutti i soggetti precari, disoccupati, inoccupati, insomma, in precarizzazione, però la generazione precaria che sta subendo gli effetti devastanti della crisi, con un tasso di disoccupazione che schizza al 29-30%, oltre a non avere la possibilità di accedere alle pensioni, perché è stata dichiarata oggettiva, sta pagando attraverso la Gerit il netto positivo dell'INPS, che è comunque una partecipata fondamentalmente. Questa è una contraddizione che dobbiamo cominciare a denunciare, senza il 50% della Gerit appartiene all'INPS. L'INPS a noi non darà mai pensioni, l'ha detto, è ufficiale, nel senso ci troveremo con una soglia minima molto più bassa di quella che c'è adesso. Ora, io penso che questi dati, uniti al contesto che stiamo vivendo, alle politiche di austerity che stiamo vivendo attualmente, siano dati assolutamente a denunciare e cominciare a praticare anche un diritto collettivo all'insolvenza, un diritto collettivo alla bancarotta per i soggetti precarizzati dalla crisi. Senti Christian, a Roma, tra l'altro, gran parte del malcontento, diciamolo insomma, è generato proprio dalle multe stradali. Qui insomma possiamo tutti fare outing, nel senso che ognuno ci può mettere il carico dei propri guai personali, no? Molte, diciamo, delle cartelle pazze che sono uscite negli ultimi anni sembra però che dipendano dal momento in cui Veltroni, quando operava appunto come sindaco di Roma, introducendo i varchi, ha fatto in modo che praticamente dalla rilevazione a mano, che era compiuta prima dai vigili, in realtà con quella automatica, quella meccanica, si è arrivati a addirittura contravvenzioni di 12.000 al giorno, quindi cifre spaventose. Che è successo? È successo che tutte queste multe sono state insomma lì ad ammuffire negli scaffali dell'ufficio contravvenzioni, fino a quando sono praticamente andate in prescrizione, non essendo state notificate, sono ritornate indietro ai cittadini con le cartelle della Gerit. C'è da dire però che il fatto che l'amministrazione comunale le abbia fatte passare in ruolo è assolutamente inconcepibile. Allora lì insomma noi diciamo c'è evidente una grandissima responsabilità anche delle amministrazioni locali, tant'è che sembra quasi che considerino le entrate derivanti dalle multe già con le loro maggiorazioni come una vera e propria voce nel bilancio delle entrate che annualmente ormai il comune, di cui il comune può usufruire. Questo è proprio è vero che è un'estorsione, insomma, certamente anche le amministrazioni centrali e locali vanno rese corresponsabili, senza ombra di dubbio, no? Assolutamente sì, infatti sono perfettamente d'accordo, anzi ho inserito anche delle informazioni che non avevo. Io penso che in questo clima di ballottaggio, visto che le amministrazioni comunali, anche come quella di Milano, stanno dicendo che è possibile sanare, sarebbe opportuno cominciare a capire anche come si fanno dei percorsi. Noi stiamo per lanciare questa campagna che anche riprende i movimenti che si sono sviluppati in Grecia nell'ultimo periodo contro la crisi e contro l'austerity. Cominciare a dire io non pago e vogliamo una sanatoria generalizzata, almeno per alcune fasce di età e alcune fasce di reddito. E quindi cominciare anche a prendere petto le amministrazioni comunali su alcune vessazioni, estorsioni e comunque che stanno attuando attraverso le multe, attraverso tutto quello che significa poi le ammende che riceviamo quotidianamente. quindi potrebbe essere anche una battaglia politica da fare contro l'amministrazione comunale, visto che a Milano stanno dicendo che si possono sanare queste situazioni. Senti Cristian, un'ultima battuta, Equitalia, da noi la Gerit, ha potuto mettere in moto questo meccanismo di grande efficienza nelle riscossioni anche per un motivo, perché non c'è interfaccia con pubblico, di fatto queste società sono praticamente blindate, su di esse non si può esercitare alcun tipo di pressione di tipo frontale, insomma, perché non c'è alcuna sportella aperto al pubblico. Ecco, domani finalmente le persone qui a Roma avranno la possibilità magari di guardare in faccia qualcuno, esprimere il malcontento, anche perché ci siamo dimenticati di dirlo, la Gerit tutto sommato la paghiamo noi, nel senso che per fare questo lavoro chiaramente trattiene una quota, insomma, di questi crediti per sé, ingrassandosi chiaramente. Assolutamente d'accordo, io penso che da domani inizia una campagna nella città e abbiamo bisogno veramente delle informazioni, delle intelligenze, di tutti i saperi che abbiamo. La campagna vuole essere portata avanti anche dai punti di informazione che potremmo avere, deve essere una campagna che propone anche delle cose, che, oltre a forme di azione, di lotta anche dure, perché adesso c'è bisogno di momenti di rottura, lo devono capire che ci stanno massacrando. Noi siamo andati a volantinare ieri, c'erano persone, a parte centinaia di persone in fila, ma anche con un senso di frustrazione e di rabbia. Questa rabbia va incanalata, va organizzata, deve diventare una rabbia collettiva. Poi dobbiamo dotarci di tutti gli strumenti a disposizione e su questo dobbiamo cominciare a fare dei ragionamenti comuni, che sia una class action o che sia cominciare insieme a denunciare, a non pagare e a rivendicarselo come diritto all'insolvenza. Queste sono tutte, insomma, sono tutte parole d'ordine di una programmazione che ci dobbiamo dare, perché questo scempio deve assolutamente finire in un contesto di crisi economica. Perfetto, allora si inizia da domani 26 maggio, Viale Palmiro Togliatti 1545, manifestazione pubblica di fronte Gerit Equitalia per il diritto all'insolvenza per precari e precarie. Cristian, ti ringraziamo.